c'hai un'altra prensa, ma fa la montone montano. Dolce, futon, Rolex, Ray-Ban, Giorgio Emporio Prada. Culo vaccaro, hello, hello, Tanger, Cocos, Palmo. Tony, Tony, Tony, Tony, Tony Montano. Tu c'hai un'altra prensa, ma fa la montone montano. Dolce, futon, Rolex, Ray-Ban, Giorgio Emporio Prada. Culo vaccaro, hello, hello, Tanger, Cocos, Palmo. Tony, Tony, Tony, Tony, Tony Montano. Robert Pacsi, hegyekben a stex, a foti úton lesz ma a szex.